One, two, three, four. Vabbè, fa lo stesso. Vai, vai, vai, vedi che ci sta. Sono una gran troiona. Sto registrando. Ho la figa sempre aperta. Se prendo 7-8 alla volta come un porco. Come un porco mangia schifo tutti i giorni. Sono un troione.